se ne frega, la pallavolo lo sport per cretino. Ma come? No, come figurati, che una rottura di scatole spaventosa. Ma come? La pallavolo. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, è sempre uguale, è una rottura di scatole spaventosa. La pallavolo. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Oh no. Le passe per Salah e la Roma con il poker. Grandissima Roma in questo secondo tempo. Anche Salah mette il gol. Quando giochi un preliminare come si è giocato, un po' di energie te le toglie sotto l'aspetto della tensione, dell'attenzione, si buttano via molte energie. Poi che succede? Che quella ha bisogno della partita di ritorno fatta in un certo modo e ugualmente ti tiene legato con il pensiero. Palla dentro, splendida, che via! Deviazione, Gonzalo! È lungo, di scontato non c'è assolutamente niente, bisogna solamente giocare e vincere la partita. Bacca con il destro di Bacca, l'attaccante che spacca, 3-1 per il Milan, tripletta e capocannoniere, seppur solo la prima giornata della Serie A, tripletta e capocannoniere della Serie A. Pellissier che si muove dentro, la prende Miranda, non è finita, c'è Birsa che pensa subito al tiro, ma ancora sul destro, come nell'occasione del gol, ci riprova e trova un gol fantastico, doppietta di Walter Birsa. Ma guarda, noi oggi possiamo tutti cercare degli alibi e dei cose, ma a me non mi piace cercare alibi, noi dobbiamo rivedere, dobbiamo ripensare, ci dobbiamo parlare e affrontare nel diverso modo le partite e tutte altre cose. Arriva Yusai, servito, lo sguardo dentro, l'albanese, Valcross, incredibile liscio e la mette dentro ancora Mertens, 2-2, doppietta per Mertens, errore incredibile al centro della difesa. Pescara ha meritato quello che ha fatto vedere il primo tempo perché ne abbiamo concesso troppi spazi. Secondo tempo dicevo che Pescara quasi non si è avvicinato alla porta nostra, l'abbiamo messi là e siamo riusciti a fare due gol, peccato, si poteva pure vincere. Ci dissociamo dalle scelte di Claudia Schiattone, autrice di questa puntata. C'è Elisa Falzoni in redazione, Gianmarco Ferronato. Non è vero che la pallavolo è una rottura di scatole, eh? Però è vero che siamo tornati assolutamente alla normalità con il nostro campionato, con qualche sorpresa. Ieri abbiamo vissuto la prima giornata, 800 24 00 24, telefono aperto fino alle 15, quindi prenotatevi per intervenire, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. L'unica cosa sorprendente di questa prima giornata di Serie A, secondo me, è che il Milan abbia battuto il Torino. Poi in realtà sorprendente fino a un certo punto, in fondo questo è il Milan più o meno dell'anno scorso, e anche l'anno scorso il Milan aveva battuto il Torino a San Siro. Tutto il resto secondo me non è una sorpresa, nemmeno i passi falsi di Napoli e Inter. E credo che non sia un caso che a bucare la prima giornata siano state le due squadre che hanno vissuto l'estate più nervosa, meno coerente fra tutte. Saluto Paolo Condò, ciao Paolo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Non è una rottura di scatole la pallavolo e non è una rottura di scatole questo campionato, no? No, c'è qualcosa no. Che ti ha stupito della prima giornata? Beh, insomma, magari non mi aspettavo, per quanto riguarda l'Inter, magari non mi aspettavo un verdetto così netto. Mi immaginavo un pareggino così, che potesse permettere a De Boer di traghettare la sua conoscenza del calcio italiano dal molto poco che evidentemente era 15 giorni fa a quello che sarà tra qualche settimana, qualche mese. Insomma, io ho fiducia nel fatto che De Boer possa, che sia un buon tecnico e quindi possa rimettere in linea di galleggiamento l'Inter. Invece 2-0 e le parole che ne sono le parole giuste, secondo me, di Handanovic e di D'Ambrosio, che ne sono seguite su un chiaro malessere dello spogliatoio, del fatto che non ne abbiamo parlato anche ieri sera a Sky con D'Ambrosio, che manca questo gruppo di giocatori che non deve essere per forza di cose italiano, anche se generalmente, a parte l'Inter del triplete, nelle altre grandi squadre io ho sempre visto che è italiano il gruppo, come adesso c'è la Juve, Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini, il Milan della grande difesa dell'epoca o negli anni successivi di Gattuso e Pirlo. Ecco, che sappia in un certo senso prendere per le orecchie quelli che non funzionano e portarli a, a giocare per il bene della squadra. Sai Paolo che cosa mi veniva in mente ieri mentre ti seguivo? Benissimo D'Ambrosio, quasi in lacrime, va bene Handanovic. Ma dov'era Icardi? Ma questa è la cosa che ti veniva in mente. Dov'era il capitano dell'Inter, quello che guadagnerà 5 milioni di euro dopo aver mandato avanti per due mesi sua moglie procuratrice? A fare benissimo il suo lavoro, io lo sostengo da due mesi, però dov'era? È quello che ci siamo chiesti tutti, perché ieri sera, come appunto D'Ambrosio ha sentito l'esigenza di dire questa cosa e Handanovic è venuto comunque a mettersi la faccia, è chiaro che quello è il momento nel quale deve parlare il capitano. Probabilmente è stata una scelta sbagliata quella di fare Icardi capitano. È stata una scelta sbagliata perché stiamo parlando di un grande centravanti che segna un sacco di gol, ma che poi non voglio assolutamente parlare della legittima ricerca di trarre il migliore stipendio dalle proprie qualità. Ecco, sì. poi possiamo, parliamo del modo magari. Possiamo parlare del modo, però la ricerca di ciascuno di ottenere il massimo che può dalle sue capacità tecniche la trovo legittima. E quello che però non trovo giusto è che ci sia questa assenza, che non è un'assenza di ieri, e anche l'anno scorso sarà venuto due volte a parlare, soprattutto nei momenti difficili, ecco. E questo l'anno scorso mi ricordo è venuto una volta per dire che gli arrivavano pochi palloni, per litigare con Mancini, no? Chiaramente sì, ma, cioè, per me il capitano ha, in tutti gli sport, non soltanto nel calcio, il capitano ha una valenza precisa. È quello che deve rappresentare la squadra, certamente. A me, per esempio, mi è piaciuto quando ieri ho chiesto ad Handanovic: scusa, ma ci sono gli uomini per fare questo discorso? Ecco, Handanovic mi ha risposto a brutto muso, ha detto: certo che ci sono, ma io non parlo delle cose dello spogliatoio, si è tolto l'auricolare e la tua. Sì. Ecco, mi è piaciuta quella reazione. Sì. A me un po' meno, se devo essere sincero, è piaciuto. Magari lo sentiamo. L'altra cosa che ha detto proprio Handanovic è che gira poi intorno all'Inter, dentro l'Inter, e che potrebbe essere una parziale spiegazione di quello che abbiamo visto ieri, che ripeto, secondo me non è sorprendente, perché quando una squadra cambia allenatore a 15 giorni dall'inizio del campionato e dopo un'estate come quella dell'Inter, io trovo non sorprendente che buchi la prima. A proposito, questa è l'ultima sconfitta di Mancini, come oggi sostengono tanti interisti, o la prima di De Boer, come ad esempio sostengo io, 8-0-0-24-0-0-24. Però Paolo, ti faccio sentire questo passaggio di Handanovic, perché mi ha fatto venire un'altra riflessione in mente ieri sera. Non siamo al massimo di condizione. E perché questo? A un inizio di campionato, dopo aver fatto chiaramente delle tournée importanti, perché e delle partite importanti. Guardate, non è, abbiamo fatto tournée, siamo stati in mezza squadra, più si viaggiava, che si allenava, non c'era tempo neanche per l'allenamento, e questo non la colpa neanche di un allenatore, anche un po' di organizzazione non è stata al massimo. C'è da dire che la nostra condizione oggi non è al massimo. Sai Paolo che cosa mi è venuto in mente? Che in due giorni io ho sentito De Boer dire che serve almeno un centrocampista importante pronto subito, potrebbe essere Sissoko. Ho sentito dire che negli Stati Uniti la tournée era organizzata male e fatta con troppi pochi giocatori, e mi è venuto in mente che erano le stesse cose che diceva Mancini fino a che non è stato messo fuori dal progetto. No, ma che ci sia stata una scollatura molto evidente tra Mancini e la società dopo la chiusura dell'affare Suning è evidente a tutti. E per quanto poi riguarda, volevo anche sfatare una cosa, per quanto riguarda la preparazione, se tu ti sei preparato male in estate, lo paghi in autunno e in inverno, non lo paghi alla fine di agosto. Cioè a fine agosto corri, anche di più, non a caso i giocatori leggeri fanno pochissimo allenamento e sono subito pronti a correre. Poi, se non hai fatto il fondo, se tu d'estate devi fare il fondo, e allora se la preparazione è stata così cattiva come dicono, il conto verrà pagato a Natale, non adesso dovresti correre. Ma comunque è evidente che se per un mese prima della definizione della separazione da Mancini ogni giorno si diceva oggi lo esonerano, oggi si dimette, oggi si separa, così è chiaro che non può essere stata fatta una... L'estate non è stata per nulla tranquilla. Però al di là di questo, se esistesse quel nucleo di giocatori di cui parlavo prima, ecco, sarebbe in grado di fare quello che diceva D'Ambrosio ieri, cioè comunque anche in queste condizioni una partita dignitosa, una corsa dignitosa, una capacità almeno di strappare il pareggio al Chievo l'avresti visto. Invece purtroppo il marasma è totale e secondo me poi c'è quest'altra cosa. Io non sono un economista e sto parlando alla radio del Sole 24 Ore, quindi voi mi siete assolutamente maestri. È un discorso che non riguarda soltanto l'Inter ma anche il Milan. Io questi passaggi di proprietà che durano un anno non li capisco. Quando io, non lo so, ho comprato casa mia, ho fatto il preliminare e dopo un mese ho fatto l'acquisto della casa. Cioè cosa vuol dire queste cose, che bisogna andare fino a, non so, a novembre, a dicembre, mi pare a novembre, sì, 5 novembre, la data ecco. del passaggio definitivo del Milan è il 5 novembre. No, l'Inter ha fatto tutto a giugno, da questo punto di vista. No, però comunque Toir rimane fino a novembre, no? Sì, perché poi rimane, il 30% poi che gli è rimasto, il 30% che gli è rimasto non dovrebbe venirli liquidato a novembre, e comunque fino a novembre rimane lui in plancia. Non lo so. Beh, però da queste storie, Paolo, poi vengono fuori paradossi come quello di Bacca, che era l'attaccante che non doveva esserci. Oggi ho letto delle parole meravigliose di Gagliani, che racconta di come abbia convinto Bacca a rimanere. A me risultava, Paolo, non so a te, che Bacca sia stato portato in giro tutta l'estate, offerto, tenuto fuori da una tournée, insomma. Beh, abbiamo fatto di tutto per venderlo. Ma c'è una prova molto semplice: nel momento in cui tu acquisti la Padula, hai in rosa Bacca e Luis Adriano, Luis Adriano sicuramente lo devi vendere. Però hai in rosa Bacca, hai un budget molto limitato e quindi ti puoi permettere soltanto dei colpi nei ruoli dove sei visibilmente più scoperto, e quello di centravanti, se tieni Bacca, certamente non è, e vai a comprare un centravanti. Insomma, è quello che voleva fare il Milan, è evidente, ma voglio dire, era anche abbastanza scoperto. Sì. Abbiamo un paio di minuti prima del traffico. Mi piacerebbe sapere se ti hanno sorpreso le difficoltà del Napoli. A me no, ma per il motivo che ho detto prima sull'Inter, cioè il Napoli ha vissuto un'estate un po' così, un po' isterica. Mi sorprende di più il nervosismo che c'è dentro il Napoli, intorno al Napoli, per qualsiasi cosa, a partire dalla gestione comunicativa. Ieri ne abbiamo discusso, abbiamo anche litigato, insomma, su questa storia delle conferenze stampa, di inviti senza contraddittorio. Ma sai, la cosa più strana, è che il Napoli, secondo me, ha fatto bene sul mercato, perché una volta incassato l'addio di Higuain, che è stata una cosa che non si è potuta trattare, pagata la clausola, Higuain è andato, ma ha incassato anche una montagna di soldi, perché 90 milioni sono veramente una montagna di soldi. Io trovo che il Napoli, che oltretutto non li ha spesi in toto, ma anzi ce n'è ancora parecchi di conserva, abbia ampliato moltissimo le possibilità tattiche a disposizione di Sarri, perché ha preso quattro fra centrocampisti e mezze punte, e mi piacciono uno più dell'altro: Giaccherini, Zielinski, Rog, il croato, che è molto bravo, e adesso Diawara. E in più Milik, che ieri ha fatto vedere, secondo me, immediatamente di avere delle potenzialità interessantissime nel nostro campionato. È chiaro che perché il mestiere è suo, e Sarri ha dimostrato l'anno scorso di saperlo fare molto bene. È chiaro che Sarri ci deve lavorare adesso su questi, e probabilmente anche cambiare qualche cosa, o dotare la squadra di due o tre possibilità di gioco, parlo di moduli, perché magari può avere senso giocare con un centrocampista in più, visto che ne hai così tanti e così bravi. È chiaro che fino a quando tu non riesci a liberarti da questa scimmia, che secondo me è più umana che tecnica, della partenza di Higuain, andrai sempre avanti. È come se sei in folle. È come se tu fossi in folle. No, col freno no, perché un po' avanti vai. Perché comunque ieri, nel momento del pericolo di perdere tre punti, c'è stata una forte reazione. Però vai col freno a mano tirato. Ma ripeto, mi rendo anche conto che queste sono cose molto più facili da dirsi che non a farsi, perché hai sofferto quello che hai sofferto in estate per quello che è successo nel mercato. Poi Higuaín nella prima partita entra e dopo 10 minuti risolve la gara, posso anche capire che i tifosi del Napoli... Era il peggiore degli scenari possibili. Era il peggiore degli scenari possibili, però detto questo, occhio che la Juventus e anche la Roma non aspettano nessuno. E quindi e questo è calcio d'agosto ancora. Le prime due giornate le ho paragonate l'anno scorso all'introduzione dei film di James Bond, no? E cioè 5 minuti di ultra adrenalina e poi appena cominciano i titoli di testa. Ecco, secondo me il campionato con queste ormai tradizionali due giornate d'agosto e poi la sosta per le nazionali è soltanto un trailer di quello che vedremo, ma anche questo trailer conta per la classifica, sì. Quindi non bisogna perdere altro tempo. Dico ad Alessio da Venezia e altri che stanno scrivendo che Paolo Condò ha ovviamente usato una forzatura dicendo che si compra casa in un mese e non si capisce perché un club debba essere comprato in un anno. È evidentemente, Paolo, un paradosso, lo sappiamo, come l'ho comprata che anni fa, magari spendere 700 milioni di euro non è come spendere 300.000 per prendere una casa, per carità, però effettivamente ci sono delle vicende paradossali in quest'estate e credo non ancora del tutto finite, ma ne riparliamo, no, nelle prossime settimane. Senza tornare sull'esempio della casa, torniamo sull'esempio degli acquisti, delle vendite dei club, anche di club importanti di anni fa. Anni fa non c'era questa dilatarsi dei tempi che creano un periodo, diciamo, terra di nessuno, nella quale può succedere di tutto. Succede di tutto, proprio parlo anche delle razzie di questi conglomerati di iperprocuratori mondiali che sicuramente fanno prima il loro interesse e poi quello del club. Sì, assolutamente. Grazie Paolo. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao, grazie Paolo Condò. 800 24 00 24. Alberto Giuseppe, c'è il traffico e poi ripartiamo da voi. Ma devo fare i complimenti ai ragazzi, innanzitutto perché siamo partiti molto meglio dell'anno scorso. L'anno scorso dopo 3 partite avevamo 1 punto, almeno quest'anno dopo 1 abbiamo 3. Tutti convocati. Tutti convocati. Qualche messaggio, 349-238-6666, De Boer non ha capito che per vincere serve una difesa forte e una difesa forte non può presentare Ranocchia inguardabile, anche Ranocchia. Oggi è sul banco degli imputati. Poi un altro amico che manda un WhatsApp: il Napoli è deluso perché il Pescara ha giocato bene, ditelo, si vede che del Pescara non sapete nulla. No, il Pescara ha giocato benissimo, soprattutto un tempo, però insomma che il Napoli vada sotto 2-0 così a Pescara sorprende Pierluigi Pardo, ciao! Ciao, come va? Bene, bene, stiamo raccontando questa prima giornata che, ripeto, per me è di sorprendente a poco, perché quando due squadre come Inter e Napoli vivono un'estate come quella vissuta da Inter e Napoli, che poi possano bucare la prima, io credo non sia in assoluto sorprendente, non so come la pensi tu. Beh, io un po' sorpreso sono, soprattutto dalla sconfitta dell'Inter, perché è vero che l'Inter ha vissuto un'estate complicata, però è anche vero che è una squadra che si dovrebbe essere rafforzata rispetto all'anno scorso e che ieri invece ha mostrato dei limiti enormi. Non ci sono dubbi sul fatto che la squadra non abbia vissuto l'estate, diciamo, più lineare, più logica, più semplice della storia di una squadra di calcio, e quindi molto lontana da quello che dovrebbe essere appunto l'ideale, però non giustifica la prestazione di ieri, che è stata veramente, veramente al di sotto di qualsiasi livello minimo. E quindi insomma questa è la sostanza. Questa è la sostanza. E per quanto riguarda il Napoli, io l'ho seguito a diretta premium. Il Napoli è una squadra che ha una buona produzione offensiva, ma ha grossi problemi di equilibrio in questo momento. Poi sappiamo che le squadre di Sarri sono un diesel, lo scorso anno ha fatto 2 punti in 3 giornate, quindi sì, non è una... E poi si è acceso, ma forse anticipa il momento delle scelte, Pier. Ma adesso avremo modo di parlarne. Alberto da Treviso, Alberto. Sì, salve. Dai. Salve, buongiorno. Complimenti per la trasmissione e grazie di avermi richiamato. Senti, io volevo fare un attimo un'analisi sulla prima giornata. Ho sentito commenti in televisione, eccetera, in radio, oltre che la vostra trasmissione ed altri. Stanno esaltando molto il Milan, la Juve, eccetera, eccetera. Io volevo solo fare una domanda. Chi ha visto le partite del Milan, della Juve e della Roma? Una Fiorentina inesistente. Bah. Un Torino inesistente è un Udinese inesistente. Cioè, i gol che ha segnato Bacca li poteva segnare anche un ragazzino. Sì. Il terzino che sbaglia l'intervento due volte, e una volta Bacca praticamente solo. E il gol della Juve, fortunato, ha segnato Higuaín. Sì, però Alberto, che ci siano state tonnellate di errori delle difese, soprattutto in Milan-Torino, hai perfettamente ragione. Ma io credo, Pier, che non si stia esaltando chi ha vinto. Però è un dato numerico, il Milan era la squadra più pericolante tra le grandi o presunti grandi e ha vinto. A me la Juve per un tempo è piaciuta tantissimo, sabato sera per ritmo, intensità, poi insomma è la prima, ricordiamoci come è partita un anno fa, e mi sembra che i problemi siano altrove. Sì, allora il Milan diciamo che ha vinto grazie a un grande attaccante e a un grande portiere, e questo sono due cose abbastanza importanti. E intanto, secondo me, con questi tre punti si è guadagnato un pezzettino di fiducia, anche perché poi, ovviamente, sabato sera gioca a Napoli, non esattamente la partita più facile del campionato, e il rischio del Milan, se non avesse vinto ieri, poteva essere veramente quello di cominciare male. E poi, quindi, insomma, per una squadra che ha grossi problemi di autostima negli ultimi anni, che ha dei rapporti col pubblico abbastanza complicati, che vive sull'orlo di una crisi di nervi, io credo che la vittoria di ieri sia comunque una notizia quanto mai importante. Ci sta il fatto che insomma la Fiorentina sicuramente non sembra una delle squadre che si è rafforzata più di tanto. L'Udinese ha grossi problemi, è uscita anche dalla Coppa Italia. Il Torino ieri ha perso gli Ajax nei primi minuti. Cioè, ci sono ovviamente tutta una serie di motivi che possono far pensare che i risultati siano più scontati di quello che si può pensare. Però comunque insomma, noi siamo qui a commentare quello che è successo ieri, che mi sembra, ieri e l'altro ieri, mi sembra insomma una continuità da parte della Juve e della Roma, che hanno vinto molto bene, una vittoria sofferta, quest'ale è stata, ma alla fine importante, del Milan, una falsa partenza parziale del Napoli e un clamoroso flop dell'Inter. Sì, clamoroso, che è se vogliamo la notizia di questo primo lunedì, e che basta scorrere i social per vedere come è stata accolta dai tifosi. Bisogna capire che l'Inter non è più l'Inter del triplete, non è più l'Inter che scende in campo con i fenomeni. L'Inter può raggiungere obiettivi se insieme è compatta, coesa e lotta per un unico obiettivo. Se pensiamo che D'Ambrosio tripla tre giocatori come faceva Maicon o Zanetti, sbagliamo. Mi metto io davanti prima di tutti, e così dobbiamo capire che insieme possiamo lottare per qualcosa di importante. Se giochiamo da singoli, non siamo singoli che possono giocare da singoli. Questo è il discorso. Queste le parole di D'Ambrosio ieri. Saluto Michele Dalai. Ciao Michele, buon pomeriggio. Ciao Giovanni, ciao Piero, eccomi. Buon pomeriggio a voi. Di chi è la colpa del tracollo di Verona? Ce lo stiamo chiedendo dall'inizio della trasmissione. È l'ultima eredità, l'ultima sconfitta di Mancini, cosa che pensano tanti tifosi dell'Inter, o è la prima sconfitta di De Boer, che ha sbagliato formazione, la difesa 3 e tante altre scelte sue? È la prima sconfitta di De Boer, che viene costruita scientificamente sulle macerie di Mancini. Cioè D'Ambrosio e Ranocchia sono... D'Ambrosio io apprezzo moltissimo quello che ha detto, mi dispiace perché io invece vorrei che ci fosse ancora Maicon, che costò più o meno quanto D'Ambrosio e giocò un calcio un po' diverso. Però il problema è che la difesa 3, che magari è un tentativo un po' sciocco alla prima esperienza in Italia, con interpreti diversi da Ranocchia e D'Ambrosio, avrebbe retto in un altro modo, anche perché i gol nascono tutti e due su errori individuali o su dei movimenti sbagliati. Per il resto io credo che questa sia una squadra molto scarica fisicamente, e quindi la pausa della nazionale col Palermo, bisognerà turarsi il naso, e la pausa della nazionale poi è il momento in cui si chiariranno un po' le idee, e penso, credo e vorrei che a De Boer fosse concesso un tempo che dura fino ai 4-5 mesi, come normalmente si fa per costruire la sua idea di gioco. Quello che abbiamo visto ieri è un pasticciaccio brutto, ma il 20 agosto è la prima giornata, è vero che è un flop, però il catastrofismo da prima giornata, io ieri, l'anno scorso ricordo, attenzione, non sto paragonando l'Inter alla Juve, però ricordo i commenti dopo Juve-Udinese. La fine di Allegri, l'esonero alle porte, eccetera. Questo è in Italia da 10 giorni, non parla ancora l'italiano anche se fa i compiti. Credo che abbia fatto qualche errore, anche ieri abbia fatto qualche errore. Credo che per lui fosse imprevedibile vedere due giocatori in difesa che fanno uno il velo per l'altro. Io non è una mossa difensiva che non avevo mai visto, ma che apprendo ieri si possa fare. L'Inter ha un problema di caratura media dei suoi giocatori, e però per correggere D'Ambrosio, ahimè, sono costati tanto. Sì, però io, Pier, non so come la pensi tu, ma l'ho detto anche prima, per carità, tutto vero, però era quello che diceva Mancini. Cioè Mancini diceva servono giocatori pronti, serve un centrocampista. Sabato ha detto De Boer che vorrebbe Sissoko, che insomma non è un ragazzino preso per investire sul futuro. Mancini diceva che la tournée era organizzata male, che erano con pochi giocatori, che avrebbe avuto un impatto fisico, ed è quello che ieri hanno detto i giocatori. Abbiamo sentito prima Handanovic. Per questo io dico, questa è la sconfitta di De Boer, è la prima di De Boer, perché in fondo l'analisi era già stata fatta prima da Mancini. Sì, l'analisi è stata fatta da Mancini, però è chiaro che De Boer non è, quando ieri parlavamo dei quattro mesi di tempo, non li puoi concedere neanche al Crotone, lo dico col massimo rispetto per il Crotone, però voglio dire, neanche alla debuttante assoluta in Serie A, con i tempi che ci sono nel calcio di oggi, si può permettere di chiedere così tanto tempo. Quindi De Boer questo tempo a disposizione non ce l'ha, ma lo sa benissimo anche lui, perché è uomo di mondo, e quindi è ovvio che non è così. Io credo che l'Inter sia rafforzata rispetto all'anno scorso, è ancora una squadra con cui nodi irrisolti a livello per esempio di terzini, a livello di reparto difensivo, secondo me ci sono delle difficoltà, poi appena uno dei titolari manca emergono in maniera più chiara, più precisa, però è una cosa rafforzata. Banega è un giocatore che ha avuto dei grandi alti e bassi in carriera, ma gli alti sono stati veramente di altissimo livello, scusandomi per il gioco di parole. Candreva è un giocatore che l'Inter ha voluto a tutti i costi e che credo sia indiscutibile dal punto di vista del contributo che può dare. Quindi io penso che l'Inter abbia una buona rosa, ha iniziato nel peggiore dei modi, ha iniziato tra l'altro con una partita largamente in colore di Icardi dopo il nuovo contratto, che è un po' il tema di Icardi. Icardi sappiamo è forse l'attaccante più forte del campionato assieme a Higuain in area di rigore, ma è anche un giocatore che tende troppo spesso ad assentarsi un po' e a partecipare poco al gioco della squadra. Quindi insomma il canovaccio su cui deve lavorare De Boer è un canovaccio complicatissimo. Secondo me adesso c'è una partita perfetta per ripartire di slancio, perché il Palermo mi sembra una delle squadre più in difficoltà dell'intera Serie A, e poi però è chiaro che a un certo punto i conti li dovrà fare De Boer. Che la sua sia stata una partenza d'handicap non c'è dubbio, perché è arrivato pochi giorni fa, e che l'Inter abbia vissuto un'estate complicata e assolutamente non ottimale è evidente. Michele, sì, Icardi, che da capitano magari le cose che ha detto D'Ambrosio avrebbe potuto dirle lui ieri sera. Ma guarda, allora no, intanto permetto che io sono d'accordo sul fatto che nessuno abbia quattro mesi servono a vedere la sua impronta di gioco. Io ho già detto che la partita con la Juve è già abbastanza un discrimine per il proseguo della stagione, quindi si parla di un mese. Icardi, sai, Icardi è capitano perché è un'operazione d'immagine molto chiara, da quel che so io, da quel che gira più o meno ufficiosamente, non è amatissimo dai compagni di squadra. La vicenda contrattuale l'ha reso ancora meno simpatico, pur secondo me essendo legittima, perché era assurdo che uno degli attaccanti più forti del campionato guadagnasse meno di Kondogbia, per dirne uno. Detto questo, non è un leader, o meglio, non ha quel genere di leadership che ti porta poi in campo e fuori dal campo le cose più intelligenti. Di ieri, con mio rammarico perché non sono suo fan, le ha detto Handanovic. È il primo che ha parlato di errore dopo Mancini, ma che ha parlato di errori nella preparazione, errori di organizzazione. E qui c'è un problema a monte, non manca un uomo con qualche seria esperienza, ed era Mancini, del calcio italiano, che rappresenti l'Inter anche a un altro livello, oppure che sia in grado di fare un'attività di indirizzo per evitare di fare queste figuracce. L'Inter quest'anno ha fatto una preparazione drammatica e soprattutto ha lavorato in condizioni drammatiche, ed è un danno autoinflitto. Io credo e spero, essendo molto convinto che la rosa sia rafforzata, che quei 45 milioni scellerati per João Mario vengano impegnati in un altro modo. All'Inter manca che sia Garay, che sia un altro, almeno un centrale difensivo, un centrocampista di manovra, ha dei terzini che da anni sono un problema, perché Nagatomo è ancora all'Inter ed è abbastanza inspiegabile, ma non solo, è anche uno dei migliori. E con questi acquisti, che sono tre, l'Inter è una squadra seriamente competitiva. Se invece si ostina a prendere un altro esterno d'attacco o un interno d'attacco come João Mario, lì il problema resta da capire se siamo veramente nelle mani di un procuratore o se l'Inter è una squadra con un progetto. Che questo magari era anche un altro dei temi sollevato in quest'estate da chi era fuori dal progetto. Grazie Michele. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao. Michele Dalai, 800 24 00 24. Chiedo un attimo di pazienza a Giuseppe, siamo in ritardo per la borsa, poi ripartiamo. Giuseppe dalla provincia di Taranto. Qui si fa fatica, ragazzi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. vi presenta Tutti convocati. No, assolutamente no, la metto su una battuta e Sinisa me lo permetterà, mi dà fastidio più il suo profumo che si sente ovunque piuttosto della sua. Anche a Genova si sentiva ancora quando era andata via, l'ho sentito a Firenze. Speriamo che lo cambi la prossima volta perché si sente davvero dappertutto. Profumo di Mihajlović, 800 24 00 24, Giuseppe. Sì, buon pomeriggio a lei, a Pardo, a tutti gli ascoltatori. Ho atteso molto tranquillamente, sono in poltrona, mentre Icardi, come un patetico simulacro di età preromana, attende che un generoso collega, e sottolineo collega, non compagno, farebbe pensare ad una compattezza diversa sentirsi compagni, e gli passi un pallone per dirgli: ecco, spingilo per favore in rete. Del tutto sbagliata la decisione di farne il capitano dell'Inter. A mio avviso c'è una sola persona tra gli attuali calciatori interisti che possa essere il capitano di quella squadra, ed è Handanovic. Poi penso che un po' tutta la stampa e i mass media abbiano celebrato inopportunamente Icardi. Persino il suo interlocutore Paolo qualche minuto fa lo ha definito un grande centravanti che segna tanti gol. Beh, però quello lo dicono i numeri, Giuseppe, Ma guardi, carissimo amico, prego. I numeri cosa hanno detto? Che l'anno scorso Icardi ha fatto la comparsa, due anni fa forse. Io adesso sto andando a memoria, credo l'anno scorso ne abbia fatti alla fine 17-18. Pier, correggimi se sbaglio, l'anno prima 22 capocannoniere, stiamo parlando di Icardi. Icardi è indiscutibile secondo me, soprattutto in area di rigore, cioè Icardi lo si conosce, il suo margine di miglioramento sicuramente è nella partecipazione complessiva al gioco della squadra, dove sicuramente è un giocatore che può crescere e direi anche che deve crescere perché ha delle intermittenze, però i numeri sono numeri, importanti, ha fatto 27 gol in stagione due anni fa, 22 in campionato diventando capocannoniere a pari merito con Toni, ne ha fatti 16 l'anno scorso in una stagione che viene considerata deludente. Insomma, se uno che fa una stagione deludente fa 16 gol, è chiaro che è perché evidentemente nelle sue corde, nei suoi piedi, sì, perché, ce n'ha almeno 20, si è abituati, no? Ad altro. Ma poi io sono d'accordo con Gagliani che dice che gli attaccanti si valutano, si pesano e si scelgono guardando l'almanacco Panini, cioè il numero di gol che fanno, l'attaccante, soprattutto la prima punta. Sì, sì, no, ma sono d'accordo, sono d'accordissimo, quindi... Icardi, cioè se cominciamo a discutere anche Icardi, secondo me, però è chiaro, è evidente che per esempio ieri non ha giocato la partita che in tanti si aspettavano, quindi ha secondo me ha dei grandi margini di miglioramento, ma anche ovviamente un'età che gli consente di poter crescere ancora. Secondo me è un grandissimo giocatore, potenzialmente è un grandissimo giocatore, oggi è un ottimo giocatore. E insomma, se discutiamo Icardi, veramente non so da dove dobbiamo discutere, credo, la sua leadership, quello sì, però è un altro discorso. È anche vero che lo scorso anno Icardi è stato servito poco e male per larghi tratti della stagione, quindi sai, quest'anno si parla molto per esempio di Napoli, no? di Higuain, di quanto Higuain abbia fatto bene al Napoli, ma anche il gioco del Napoli l'anno scorso ha messo Higuain nelle condizioni di fare quello che ha fatto. Probabilmente con più rifornimenti Icardi avrebbe segnato di più anche l'anno scorso. Certo, che poi è una delle grandi scommesse del Napoli, che da questa cosa di Higuain, ne parlavamo prima anche con Paolo Condò, non è ancora uscito dal trauma della separazione. È stato molto difficile, ma alla fine ho scelto quello che pensavo che era il meglio per me. La risultata, se tu vedi tutti i gol miei, festeggio uguale. Non c'è nessuno che festeggia più tranquillo che l'altro. Per me tutti i gol sono importanti e bellissimo per un giocatore fare gol. Quindi in questo non condivido, sempre festeggio uguale. No, è stata una liberazione di niente. Un'ultima, Marek, perché ieri Higuain ha deciso la partita della Juve. Avete visto la partita? Ti ha fatto un po' effetto vederlo esultare con la maglia della Juve? Vabbè, è normale, questo è calcio, ha fatto sua scelta, noi dobbiamo guardare noi e non la Juve. Questo era Hamsik, sull'esultanza di Higuain. Vi faccio sentire un'altra cosa che fa discutere Cavani sul tradimento di Higuain. Cavani che dice: io non sarei mai andato alla Juventus. Guarda, ognuno sceglie e fa quello che sente di fare, quindi io cosa ti posso dire? Niente, non l'avrei fatto mai. Saluto Antonio Giordano, collega del Corriere dello Sport. Ciao Antonio. Saluto voi, ho sentito una voce amica molto riposata. Saluto a Pardo. Molto come riposata. Sentiamo, ai 35 gradi all'ombra. Vabbè, non ce la passiamo state, male. È pure estate, appunto. Meno male. Speriamo che duri. Speriamo che duri. No, speriamo che duri per voi, perché noi qui abbiamo finito. Mi spieghi, Antonio, perché il Napoli è così nervoso? Perché. Nervoso intendi la città o intendi la squadra? Ma la squadra, la società, insomma mi sembra che stia vivendo una fine estate, un inizio stagione a nervi scoperti e siamo solo a fine d'agosto. Ma devo dire che tu prima hai sintetizzato splendidamente il trauma della separazione. Credo che non sia facile liberarsi da questa sorta di shock che se lo porterà presto la città, molto probabilmente fino a quando non darà sfogo, come dire, alla sua insoddisfazione repressa in quella che è la madre di tutte le partite, governata oramai da un cerchione azzurro intorno alla data simbolo. Però poi c'è un calcio che insomma va affrontato diversamente. Il nervosismo di una squadra che non riesce ad essere se stesso, soprattutto nella prima ora di gioco ieri sera, il nervosismo di una città che la ferita dell'addio di Higuain l'ha sopportato duramente, dolorosamente, devo dire. E quello che probabilmente anche all'interno stesso di un club che non si aspettava di imbattersi in una vicenda del genere, che un po' l'ha trovata scoperta e che comunque ha attrezzato una squadra di grandi prospettive, perché non credo che possa essere ora il 2-2 di Pescara a modificare l'asse di un progetto tecnico. Certo, ci sono delle risposte che il campo dovrà dare. Avete anche l'impressione, lo giro anche a Pierluigi Pardo come tema, che forse in assenza di Higuain, che un po' catalizzava tutto, anche le scelte davanti, sia arriverà prima, sia forse già cominciato ad arrivare il momento delle decisioni. Ad esempio ieri abbiamo visto prima Gabbiadini e poi Milik, meglio Milik, abbiamo visto Mertens tutt'altro che soddisfatto di partire sempre dalla panchina. Pier. Ma io innanzitutto penso che, innanzitutto sono d'accordo con Antonio, nel senso che secondo me poi il Napoli è una squadra di grandi prospettive e si deve assestare dietro, non ci sono grandi discussioni, anche se io poi penso, non so dirti se Maximovic, che è un ottimo giocatore, possa risolvere i problemi, cioè se il problema difensivo del Napoli, che poi insomma per larga parte della stagione lo scorso anno non c'è stato, ma che in certi momenti riaffiora, magari nei momenti nei quali la squadra non è ancora al meglio della condizione fisica come inizio di stagione, come è successo ieri, non so dirti se questo problema possa essere risolto semplicemente dall'arrivo di un nuovo giocatore oppure è una sorta di rovescio della medaglia di una grande produzione offensiva che in fondo anche ieri c'è stata, perché poi il primo gol ad esempio del Pescara arriva dopo 5-6 minuti di grande partenza del Napoli, quindi questo credo sia un tema proprio tattico che riguarda Sarri, che riguarda la necessità di migliorare in difesa, ma secondo me al di là degli interpreti, perché poi insomma Koulibaly lo scorso anno ha fatto una grande stagione, Albiol comunque è un giocatore cresciuto, cioè non faccio fatica a dire che ci sia un problema di uomini, forse più che altro un problema di modulo e di interpretazione delle partite. E poi secondo me la grande sfida di Sarri quest'anno è anche la gestione di una competizione comunque più importante, come la Champions League, quindi il turnover è meno facile rispetto a quando affronti l'Europa League. Ieri Mertens ha dato un'occhiataccia dalla panchina, tanto dopo il gol del 2-1 e anche dopo il gol del 2-2, per esempio questo è un tema. Sì, è un tema anche perché, ripeto, magari in assenza, non essendoci più Higuain, la cui titolarità era più o meno accettata da tutti e metteva a posto tutte le caselle dell'attacco, ho l'impressione che oggi sarà più complicato per Sarri in questa stagione decidere quali sono le priorità. Era questo il tema, Antonio? O forse anche più semplice, forse verrà anche più naturale, più meccanico. Prima diceva bene Pardo, il problema è soprattutto di carattere tattico, non di uomini, ma è chiaro che all'interno del 4-3-3 qualcosa paghi e nel giorno in cui, ora userò un paradosso che non è neanche mio, ti manca Jorginho, finisci per avvertire più l'assenza sua che non paradossalmente quella di Higuain, ma non prendetemi per pazzo, riguarda una questione di equilibrio. E i gol sono stati frutto di una gran bella giocata del Pescara, non vorrei che questo 2-2 passasse soltanto per un insuccesso del Napoli, va dato merito a Oddo di aver attrezzato veramente una squadra dal punto di vista delle idee nell'ora competitiva e comunque con delle soluzioni. E comunque il Napoli ha bisogno ora intanto di trovare le coperture preventive che probabilmente in certi momenti della gara ha smarrito, un certo dinamismo e soprattutto devo dire una brillantezza di gamba che è quella che ti porta ad arrivare sempre prima dell'avversario sul pallone. L'anno scorso il Napoli c'è stato un momento della stagione, dalla terza di campionato in poi, in cui ha sciolto se stesso e per tre mesi, non dico che non ci sia stata partita, ma per tre mesi è stato complicato per gli avversari riuscire a fare la partita. Non è ancora quel Napoli lì, forse è anche una questione di acido lattico, forse di caldo e forse anche di interventi che Sarri sta per pianificare. Però è chiaro che ci sono due argomenti principali in questo momento: Mertens, Insigne, Gabbiadini, Milik, più il primo che il secondo, perché Mertens ha ribadito ancora una volta la sua elevata qualità. Sì, e credo che Sarri abbastanza in fretta dovrà dare delle gerarchie. L'anno scorso c'erano Higuain, Calleon e Insigne. E quest'anno magari qualcosa potrà cambiare, e non solo al posto di Higuain. Grazie Antonio. Grazie a voi. Grazie. Ciao, Antonio Giordano. 800 24 00 24. Mi tengo ancora un paio di minuti per Luigi Pardo, che ci sono alcuni ascoltatori. Torniamo subito. Siamo all'inizio del campionato, non è facile, oggi faceva caldo e si è visto tanti crampi, ci può stare ancora, però noi eravamo messi male primo tempo, lunghi e tanti spazi tra le reparti, e Pescara ci ha messo difficoltà su questo. Tutti convocati. Tutti convocati. Belotti contro Donnarumma, parte Belotti. Destro Donnarumma! Il boato di San Siro, il boato di Donnarumma! Rimane in vantaggio il Milan che vince la partita al 94esimo. Il sorriso amaro di Siniša Mihajlović. L'eroe non è più Carlos Bacca, è Gigio Donnarumma. Il Milan vince 3-2. Una partita con un finale pazzesco! Se non l'avessi saputo non l'avrei fatto esordire l'anno scorso. Lui è bravo, ma non c'era bisogno che mi pare rigore per dimostrarvelo. Ecco. Che bella questa storia, con Donnarumma lanciato da Mihajlović che lo beffa con quella parata su rigore, il primo rigore parato della sua carriera all'ultimo minuto, Pier? Un grande Siniša, devo dire, noi stasera a Tiki Taka proporremo questa chiave che è un po' Olly e Benji, non so se te lo ricordi, il cartone, sì, animato. Certo. Perché il Milan, no, Olly si allena tirando i rigori, Benji si allena parlando i rigori, il Milan ieri è stato soprattutto questo, è stato un grande attaccante e un grande portiere. È chiaro che in futuro per andare a certi livelli questo potrebbe non bastare, però intanto, ripeto, è una buona partenza, sono tre punti, guarda, mai come nella situazione del Milan, secondo me partire bene è importante, perché mentre il Napoli, comunque lo sappiamo che può essere un diesel un po' come l'anno scorso, la Roma in testa in questo momento ha soprattutto la Champions League, la Juve ha dimostrato lo scorso anno di saper uscire anche da situazioni complicate dopo 10 giornate, la stessa Inter secondo me il Milan rischiava di incartarsi, il Milan era in una situazione di un calendario difficile, ma il Milan era in una situazione di orlo, sull'orlo di una crisi di nervi nel rapporto con i tifosi, con un mercato che non decolla, con un calendario difficile perché c'è Napoli, quindi i tre punti di ieri sono veramente oro. Sono fondamentali. Marco, Massimo e Orlando, vediamo di fare tutto insieme. No, Massimo da Sondrio e Orlando dalla provincia di Caserta. Marco da Bergamo, dai. Buongiorno, tifoso dell'Inter, ciao. No, io sono d'accordo con Pardo quando dice che Icardi è un grandissimo giocatore, però è tutta estate che sta trattando con la società, ancora ad oggi non c'è nero su bianco, e lui quando entra in campo fa un po' il giocatore un po' supportato, di quelli che vuoi vedere che quando mi firmano il contratto poi io mi metto a segnare. Quindi io credo che di fondo ci sia un errore societario che praticamente io ieri non l'avrei fatto giocare, fosse stato De Boer, avrei fatto giocare Perisic piuttosto, e sicuramente questo è un po' il danno di quest'anno dell'Inter iniziale. Volevo dire un'ultima cosa velocissima. Sì. Credo che l'Inter sia stata un po' sciagurata da Toir, togliendo tutto quello che d'italiano aveva prima, se poi d'italiano c'era pochissimo, e quindi credo che l'Inter abbia bisogno di dirigenti italiani, perché il povero Ausilio da solo non ce la farà mai, e credo che, spero che la nuova società porti con sé dalla dirigenza che stia presente in Italia. Sì, così a occhio non credo, Marco, così a occhio non credo, almeno non sono queste le premesse iniziali, però vedremo, poi settimana prossima Zhang viene in Italia e quindi magari avremo qualche notizia in più. Massimo. Sì, buongiorno, buongiorno, saluto a tutti, grazie per avermi convocato. Volevo parlare del mercato della Juventus, soprattutto dell'acquisto di Higuain. Sì. Secondo me è stato, non vorrei che fosse come il passo più lungo della gamba. Io mi ero abituato a Vidal, a Pogba, erano sì dei campioni ma che arrivavano un po' così. Questo tutto in un colpo, spendere tutti questi soldi per un giocatore sì affermato, fortissimo, ma cavolo, forse noi non possiamo permetterci un giocatore che guadagna così tanto, costato così tanto, una squadra che aveva fatto la sua forza nel gruppo. Non lo so, io credo che la risposta sia già arrivata sabato sera, Pier. Ma sì, poi guarda che i grandi gruppi hanno bisogno anche dei grandi campioni e la Juve ce n'aveva anche prima dell'arrivo di Higuain. Io penso che la Juve abbia fatto le cose in grande, credo che abbia adesso in mezzo al campo delle cosine da sistemare, perché il vero paradosso di oggi è che chiaramente si è alzata l'asticella, l'obiettivo è la Champions League, ma se tu pensi all'anno della finale di Champions League, il centrocampo era Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio. Tre sono andati via, Marchisio ovviamente starà fuori per un po', ci sono altri giocatori, c'è Piazza che è un arrivo importante, c'è Pjanic che è un arrivo importante, però secondo me lì in mezzo al campo la Juve deve ancora fare qualcosa. Per il resto la squadra si è rafforzata, Higuain è un centravanti fantastico, è chiaro, è un investimento nell'immediato, non è un investimento di prospettiva, è un investimento oneroso. È un investimento per cercare di vincere la Champions. La Roma, inutile la che ci giriamo intorno. La Roma per vincere lo scudetto del 2001 ha comprato Battistuta, ha speso 70 milioni. Ma anche l'Inter del triplete, prese Milito, prese Thiago Motta, prese Sneijder. Ci sono stagioni in cui fai così. Orlando. Buonasera. Dai. Buonasera, grazie della convocazione. No, io riflettevo un attimo su quel che si dice alla Reato, che leggo sui giornali in merito all'analisi della giornata di campionato ultima scorsa, nonché la prima, pensavo, ma a volte minimizzando, si sorvolano dei dettagli, tipo che se alla Roma non venivano concessi due calci di rigore regalati probabilmente non sbloccava la partita, che se qualcuno avesse notato che Asamoah fosse in fuorigioco sul primo gol della Juve probabilmente non si sbloccava la partita. Sì, ma non credo fosse in fuorigioco, chiedo scusa, però. Chiedo, sì, scusa, prego. chiedo scusa. La cosa che poi più mi dà fastidio è fare dei paralleli. Ad esempio, faccio un esempio: se la Juventus è sotto di 2-0 a Palermo e comincia il secondo tempo, pareggia, vince la partita su un calcio di rigore concesso, si parla di una dimostrazione di forza, enfatizzando. Noi invece stiamo parlando del Napoli come se avesse stesse ancora piangendo la morte di Gerardo, perché non lo chiamo più Gonzalo, sì. Spiega tanto del trauma. Prego, Orlando. Mi scusi, sì. No, volevo dire, mi pare che ieri è stata una grande dimostrazione di forza cancellata dal signor Rocchi. Siamo figli del risultato. Orlando, va bene così. Io oggi ho letto le moviole e mi sembra che il signor Rocchi ieri abbia fatto bene il suo lavoro, però magari sbaglio io e sbaglia chi ha fatto le moviole su tutti i giornali che almeno ho letto io questa mattina. Grazie comunque. Pier, ti saluto che ci sentiamo domani. 23:45. Vi abbraccio. Ciao belli. Ciao. Parliamo di pallavolo. Andiamo a Brasile. Paolino Toffoli. Ciao Paolino. Ciao a tutti. Questa maledizione dell'oro olimpico che non arriva è un po' una maledizione, veramente comincio a crederci che è una maledizione. No, perché anche ieri l'Italia aveva serie possibilità di vincere l'oro, secondo me ieri c'era grandissima voglia, c'era anche la condizione per poter battere il Brasile in casa loro, diciamo la verità, la pressione era tutta sul Brasile, perché loro giocando in casa con 20.000 persone devono loro vincere questa medaglia, quindi l'Italia doveva giocare un po' più pregiudicata, spavalda. E non è stata la migliore Italia, diciamo la verità. Infatti quello, che non è stata la migliore Italia, poi ha giocato un po' tesa con il freno a mano tirato, invece doveva fare una partita più spregiudicata, e secondo me se metteva sotto pressione il Brasile si poteva fare. Secondo te cos'è che è inciso? Cioè questione di stanchezza, le Olimpiadi sono anche un torneo particolare, molto lungo, si gioca praticamente tutti i giorni, o è la tensione che ha un po' mangiato dentro una squadra comunque complessivamente abbastanza giovane, quella italiana? Ma di stanchezza non parlerei, perché era stanco, diciamo, anche il Brasile, più che altro di tensione, non hanno saputo gestire la tensione. Del resto c'erano anche giocatori giovani con, diciamo, tra virgolette poca esperienza, perché anche Giannelli ha 20 anni, è la prima Olimpiade, ancora lui gli manca tanta esperienza. Zaitsev non ha fatto la partita che ha fatto con gli Stati Uniti, vabbè che lì era stata una cosa eccezionale, che è entrato in battuta, ha fatto un filotto di 4-5 punti. Sono mancati in alcune cose, anche se, diciamo, un 3-0 un po' bugiardo, perché sono stati tutti i set tirati e bastava veramente ogni set una palla in più all'Italia e ci portavamo a casa noi la vittoria. Quindi è lì, quando si giochi una finale olimpica bisogna fare sempre una gara perfetta e i dettagli sono straimportanti. Sì, non siamo stati, a proposito dei dettagli, nemmeno tanto fortunati con gli arbitri. Ora è vero che nella pallavolo si fa poi poco ricorso ai ragionamenti sulle decisioni dei giudici di campo, però quelle due chiamate lì, soprattutto quella nel secondo set da 22-20 potenziale al 21-21, sono chiamate sì, pesanti in una finale che si decide punto a punto. Ogni palla, ogni punto pesa come un macigno, quella poteva essere per noi. Però anche se ragionavo anche in questi giorni, per esempio ai miei tempi non c'era il video check, mi immagino quante partite poteva aver perso o vinto per palla dentro, fuori o invasioni. Dopo alla fine, anzi, in questo video check si è migliorato tanto, si può sbagliare anche lì, dopo bisogna vedere dove è la ragione. Ma chi aveva ragione? Perché io onestamente ho visto il tocco e ho visto l'invasione nelle due chiamate, però io tifavo per l'Italia, magari posso aver avuto, però ho visto anche una reazione particolare da parte di Blengini, dei giocatori della nazionale, e ripeto, la pallavolo è un ambiente in cui si è poco abituati anche alla protesta. Non si protesta tanto, con questa tecnologia le immagini si vedono ben chiare, no? Palla dentro, fuori per un minuto, palle toccate. Come si fa a sbagliare allora? Non voglio pensare che ci sia stata un'influenza, una pressione, perché si giocava in Brasile, io magari un aiutino, però ci può stare. Ripeto, io ho perso delle partite che magari palle dentro mezzo metro andate fuori, cioè delle cose pazzesche. Se ci fosse stato il video check a quest'ora magari avevo vinto qualcosa in più, o magari avevo perso qualcosa, qualche medaglia o qualche coppa in meno, avevo messo in bacheca. Quindi fa parte dello sport questo, quindi bisogna accettare anche che questi verdetti. Sì. Mi dai un voto all'Olimpiade italiana nel complesso? Ma nel complesso all'Italia io gli do 9, anche perché diciamo 10 se vincerà la medaglia d'oro, ma insomma la medaglia d'argento è una grande medaglia, fa bene per tutto il movimento pallavolistico. Certo, se si vinceva l'oro ci sarebbe stata proprio il volley mania. Però ecco, hanno fatto una bella pubblicità, una propaganda, e niente, adesso si punterà fra 4 anni, ci riproveremo. Anche perché c'è questa maledizione da cancellare. Grazie Paolo. Sì, grazie a voi. Grazie Paolo Toffoli. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Torniamo domani dopo il GR delle 14. Oggi è arrivato il Fata Negra. Sì, grazie, televisione facciamo dopo. Vice Rosso. We'll be right back.